5 regioni entrano in zona arancione, dunque dalla giornata di domani. In queste regioni si tratta di Umbria, Abruzzo, Toscana. In queste 5 regioni non si potrà uscire dalla regione e non si potrà uscire dal proprio comune di residenza. Ci sono anche Basilicata e Liguria, naturalmente, mentre ancora si sta ragionando sulla Campania. In una giornata nella quale i dati ci consegnano ancora un afflusso di altre 110 persone aggiuntive in terapia intensiva e altri 1100 ricoveri, mentre da più parte si continua ad invocare un lockdown generale. E però la giornata di ieri è stata anche una giornata all'insegna di un parziale ottimismo, con le notizie che sono arrivate dalla multinazionale americana Pfizer, la quale ci ha fatto sapere che il vaccino elaborato insieme alla tedesca BioNTech ha un'efficacia del 90%. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. When I'm a Marty Boom, I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. È dura stamattina, è dura. Non so se l'avete notato, mi stavo perdendo due regioni, la Basilicata e la Liguria. Comunque ci siamo arrivati. Buongiorno, è le 6:34 minuti di martedì 10 novembre con Peter Bescapa in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E ovviamente voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Oh, che poi non ve lo ricordo mai, ma siamo anche in diretta su Facebook, se volete, se avete questa morbosa curiosità di vederci, siamo anche là. Già su questa storia del vaccino, polemiconi, perché la Pfizer ha deciso di annunciarlo dopo le elezioni americane, dopo aver saputo che Biden aveva vinto, e qua già ci si divide su questo. C'è chi dice volevano far vincere Biden, altri dicono più correttamente hanno atteso l'esito del voto. È così. Allora, oggi mi consentirete, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di metterci un filo di ironia in apertura, perché gli audio che abbiamo dalla giornata di ieri, a parte quelli sul vaccino, sono tutti terrificanti. La situazione è dura, E però l'altro giorno, mentre parlavamo della morte di Gigi Proietti, si citava Brancaleone, che ovviamente è interpretato da Vittorio Gassman, però ci sono anche delle parti nelle quali c'è Gigi Proietti. Ebbene, mi è venuto in mente questo passaggio. Sentiamo. No, su quello letto no. Lo perché? Dammi ti prendimi, cucurucù. No, vi morì lo mio marito. Ulla, quando? Ieri. Ieri? Di che malanno? Come di che malanno? Dello gran morbo che tutti ci piglia, la peste. Via. Aiuto! Aiuto! La peste! La peste! eccolo qua, Vittorio Gassman con La Peste, La Peste. Senza per questo sminuire le parole, per esempio, di Walter Ricciardi, consulente del governo. In questo momento è una tragedia, come dico, annunciata se non si prendono delle decisioni rapide. Tragedia annunciata significa che ci saranno migliaia di infetti e centinaia di morti nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Senta. E questo credo che il Paese non se lo deve e non se lo può permettere. Ancora Ricciardi. Se continua così, il Natale, altro che Natale sereno, sarà un Natale in cui probabilmente staremo chiusi in casa. Se invece noi agiamo tempestivamente, come sta dimostrando tutto il mondo, per vedere effetti a misure che mettiamo il caso attiviamo adesso, cioè oggi siamo al 9 novembre, devono passare almeno 15-20 giorni e quindi stiamo a ridosso del Natale, che naturalmente che cosa significa? Significa che probabilmente la curva è appiattita, ma non in diminuzione, quindi non ci consente di fare le cose che tradizionalmente noi vorremmo fare a Natale. Ancora Ricciardi. Ma lei non ha idea di quante centinaia di telefonate io ricevo dai medici, cioè da quelli che curano queste malattie, dicono aiutaci per favore a far capire a questa massa di gente che noi non riusciamo più a intervenire appunto su pazienti oncologici, non riusciamo più a curare gli ictus, le fratture, le valvole cardiache. Allora, se ci sono queste separazioni tra il mondo reale, che è quello che stiamo dicendo, e la politica che prende tempi, giorni, mesi, voi capite bene che noi andiamo in fronte a una tragedia nazionale, ma che sarà misurabile in termini di malati e di morti che noi non saremo stati in grado di curare. Così Ricciardi, anche la dottoressa Viola, la professoressa Viola. Una è laddove è necessario intervenire con delle misure estremamente drastiche, ma estremamente drastiche significa non permettere gli spostamenti. Allora è inutile consigliare lo smart working va imposto nelle situazioni dove il contagio è effettivamente preoccupante. E il presidente del sindacato dei medici, Anelli. Oramai abbiamo raggiunto livelli abbastanza critici, le file delle ambulanze ai pronto soccorsi si registrano un po' dappertutto nelle varie regioni, le terapie intensive cominciano ad avere numeri importanti e se continuano così avremo entro la fine del mese raggiungeremo i 5.000 posti occupati che sono il limite. Adesso arriveremo alla questione del vaccino, perché c'è già qualche ascoltatore che scrive, lo fa per esempio un medico di base in Toscana che ci scrive, abbiamo grandi difficoltà anche per la fornitura dei vaccini antinfluenzali, figuriamoci quando arriveranno quelli contro il coronavirus. Guardi, se posso dire, la vera grande sfida nel momento nel quale arriverà il vaccino sarà esattamente la questione logistica, come distribuirlo e come fornire questo vaccino, e credo che ci siano pochi paesi che sono pronti, Però indagheremo anche questo, perché il tema della distribuzione del vaccino è centrale nel momento nel quale lo avremo, ovviamente. Conoscendo il paese temo un po'. Conoscendo anche come il paese è organizzato dal punto di vista sanitario, una certa confusione tra regioni e governo in questo periodo c'è stato e dunque si invoca una maggiore centralizzazione. Ancora Ricciardi dice: il ministro mi ascolta, però siamo in guerra, ci vuole un unico generale. Purtroppo devo dire che il ministro certamente mi ascolta, ma poi ci sono altri tempi, mediazioni che non sono compatibili con una pandemia. È come se in guerra uno dicesse: ma vogliamo attaccare, che dici, discutiamo, andiamo in trincea. No, c'è un unico generale che prende la responsabilità e combatte difendendo un intero paese. Un ascoltatore dice: ma perché continui a dar voce a Ricciardi? Ma esattamente per questo motivo, è il consulente del ministro Speranza, è quasi, non dico che è come se fosse la voce del ministro Speranza, però è una voce rilevante, molto ascoltata dal ministro, no? Ancora la questione delle regioni, la questione delle regioni. C'erano dei sospetti sul fatto che la scelta di metterle gialle, arancioni fosse politica. Ah, tra l'altro, avete notato che la Campania è ancora gialla? È rimasta tra le regioni a basso rischio. E qua se viene sollevata qualche perplessità, si indaga anche su come vengono forniti i dati alla regione Campania. Vedremo. Zaia dice: non credo che ci siano questioni politiche dietro. Io non contesto nulla, nel senso che la salute viene prima di tutto. Ho qualche perplessità sul fatto che qualcuno possa pensare che esiste un ufficio dove si mettono insieme i 21 parametri e ne abbiamo fuori con la formula magica il colore dell'area. La Campania. Dice il sindaco di Napoli, De Magistris, qualcuno gli dice: dovrebbe muoversi, sindaco. E lui dice: non lo posso fare io. Allora le do un quadro preciso. Chi può disporre il lockdown a livello nazionale ed anche regionale è il Presidente del Consiglio con i DPCM di cui abbiamo parlato, attraverso i decreti poi del Ministro della Salute. Le regioni possono a loro volta ripristinare lockdown regionali oppure per singole aree. Per esempio la città di Napoli potrebbe chiuderla o il Presidente del Consiglio o il Presidente della Regione. I sindaci possono solamente, attraverso indicazioni nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sentite le forze di polizia, sentite il prefetto e le ASL, di individuare singole una strada, come dicevamo prima, una piazza o una via. Quindi il lockdown non lo può fare un sindaco. Un ascoltatore, dopo aver sentito le parole di Ricciardi, festeggia, dice: che figata, Natale senza raduni familiari, ma da soli a casa con una bottiglia di vino. Già si vede. Senza l'impegno, per alcuni l'impegno psicologico del Natale è notevole. Oh, poi c'è tutta la parte dei ristori, la parte economica. Il viceministro Misiani dice: senza la protezione sociale si sarebbero persi 2 milioni di posti di lavoro. L'indicatore più realistico è l'andamento delle ore lavorate, è in drastica riduzione. Noi stimiamo nella nota di aggiornamento che nel 2020 si riduca complessivamente del 9,5%, quasi 2 milioni di posti di lavoro che sarebbero andati persi se noi non avessimo fatto la scelta sin dall'inizio di garantire strumenti ammortizzatori sociali. Con gli ultimi provvedimenti di questi giorni abbiamo rifinanziato la cassa integrazione, lo faremo anche con la legge di bilancio per il 2021 che arriverà in Parlamento in questi giorni. E poi c'è tutto il capitolo dei ristori. Ieri è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato il decreto, e quindi è pronto, è in arrivo. Apprendiamo che le agenzie di escort riceveranno il contributo previsto dal decreto Ristori Bis. Lo riferisce? No, ma guardate, io non so veramente che cosa dire. Lo dice Serena Ranieri, presidente di Federmep, l'associazione del comparto matrimoni. Perché? Perché le agenzie di accompagnatrici ai fini fiscali sono equiparate alle agenzie matrimoniali. Riceveranno i soldi anche i sexy shop. Così apprendiamo dal decreto ristori bollinato ieri. Traffico, va. Oh, vedo che qualche ascoltatore questa mattina sta continuando a lanciare stimoli sul tema elezioni americane truccate, come sostiene la campagna elettorale di Donald Trump, citando ad esempio il fatto che, è notizia di questa notte, ed è vero, il segretario della giustizia americano Barr ha ordinato che il Dipartimento di Giustizia avvii un'indagine esattamente sulle elezioni, su eventuali brogli, posto che in alcuni casi il conteggio non è ancora chiuso, i risultati non sono ancora ufficiali. Ieri, tra l'altro, è successo un fatto particolare dal punto di vista, se volete, anche giornalistico. Fox News, che è, come sapete, una TV molto vicina a Donald Trump ed è una TV di informazione, stava mandando in onda la conferenza stampa della capa, della responsabile della campagna elettorale di Donald Trump, ed è successo questo. We want every legal vote to be counted. And we want every illegal vote to be... I just think we have to be very clear. She's charging, the other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting. Ed eccola qua, un'altra televisione che decide di interrompere un rappresentante dell'amministrazione americana, nei giorni scorsi era stato Donald Trump, perché non sta portando prove in merito a quello che dice. Cioè, se ti presenti in una conferenza stampa e dici che ci sono stati dei brogli, devi portarmi delle prove o delle cose concrete. Le dichiarazioni generiche non bastano. Il fatto che Fox News abbia fatto questa scelta è una cosa che farà discutere, perché nei giorni scorsi, come sapete, altri network l'avevano fatto col presidente americano. Ne abbiamo parlato poi ieri con Paolo Mieli. È censura? Non è censura, è la scelta che correttamente deve fare un giornalista, non è la scelta che dovrebbe fare un giornalista, dovremmo trasmettere e poi semmai correggere. Il dibattito è aperto, se volete. La buona notizia di ieri, come dicevamo, o meglio, che crediamo che sia una buona notizia, però adesso chiediamo conferma e cerchiamo di capirne di più. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, la dà, eh? Sentiamo. It is a great day for science, it is a great day for humanity. When you realize il vaccino elaborato dalla multinazionale americana insieme alla tedesca BioNTech ha un'efficacia, hanno detto, del 90%. Questa è appunto quella che prendiamo come una buona notizia e sulla quale chiediamo qualche delucidazione alla nostra amica Roberta Villa, giornalista, divulgatrice scientifica, collabora a CEST con l'Università Ca' Foscari di Venezia, un progetto europeo su come migliorare la comunicazione della scienza. Roberta, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, è veramente è un'ottima notizia o a cosa dobbiamo guardare? Allora, è sicuramente un'ottima notizia, poi ci sono delle cose a cui dobbiamo guardare, però è sicuramente un'ottima notizia, soprattutto perché questo risultato è al di sopra di qualunque aspettativa, nel senso che mentre l'FDA americana si era ripromessa di approvare solo vaccini che garantissero un'efficacia o mostrassero un'efficacia di almeno il 50%, addirittura l'ente europeo non aveva nemmeno posto una soglia, tanto basse erano le aspettative sulla possibile efficacia di questi prodotti. Quindi questo risultato, che per quanto preliminare è relativo a 94 casi dopo una settimana dalla seconda dose di vaccino, quindi diciamo ancora non può essere considerato definitivo, è sicuramente qualcosa che ci sorprende e ci sorprende positivamente. Sì, poi Roberta, scusami, per dare la misura, se non vado errato, l'efficacia del vaccino antinfluenzale è tra il 40 e il 60%. Spesso abbiamo fatto paragoni con l'influenza quando abbiamo parlato di questo virus, a volte impropriamente, facciamolo però sul vaccino, che forse può dare agli ascoltatori un po' la misura, no? È tra il 40 e il 60, se non vado errato, per l'influenza. Sì, in alcune stagioni anche inferiore, in alcune fasce di popolazione anche inferiore, questa è la ragione. Qualcuno ieri leggeva, ma 90 è poco, no, assolutamente, non esistono vaccini o quasi che diano il 100% di efficacia, quindi è sicuramente un ottimo risultato, però poi dobbiamo vedere se verrà confermato, sì. Qui ricordo appunto che è su 90, praticamente i volontari sono stati divisi in due gruppi, qualcuno ha ricevuto il vaccino, qualcuno ha ricevuto un placebo e nessuno sa, fino al momento in cui si aprono le buste, si verificano i numeri a chi erano accoppiati, chi ha ricevuto l'uno e chi ha ricevuto l'altro. E dopo 94 di loro si sono ammalati a una settimana dalla seconda dose, si è visto che la stragrande maggioranza non era stata vaccinata. Quindi questo è il meccanismo con cui poi viene verificato. Roberta, perdonami, così chiariamo per un ascoltatore che già ci scrive terrorizzato, no? E dice, cioè ci state dicendo che il 10% delle persone che utilizzeranno questo vaccino potrebbe avere degli effetti collaterali anche gravi? No, non è questo. Vuol dire che sul 10% non funziona eventualmente, non dà effetti collaterali. Esatto. Dal punto di vista degli effetti collaterali, per il momento l'azienda non riferisce effetti significativi sulle tante persone, sono quasi 40.000 che hanno ricevuto finora il vaccino, quindi questo è un altro buon segnale. Poi ci sono dei limiti, nel senso che prima di tutto dei limiti relativi al tipo di prodotto, nel senso che è uno dei vaccini più innovativi che si stanno producendo tra i tanti diversi vaccini che si stanno preparando, è un vaccino mRNA. Quindi non è mai stato approvato un vaccino di questo tipo nel mondo e quindi c'è da aspettarsi magari qualche tempo in più da parte delle agenzie regolatorie per approvarlo. E l'altro limite legato al tipo di vaccino è che sembra che debba essere conservato a una temperatura di meno 70-80 gradi centigradi. Questo significa che non potrà essere tenuto in un frigorifero normale o di un... ci vorranno delle strutture apposte, questo naturalmente complicherà la distribuzione. Sì, la distribuzione, e quella è la grande, mi pare la grande sfida nel momento nel quale arriverà il vaccino. Roberto, dobbiamo chiudere, io ti ringrazio, è come dicevamo prima e come ci scriveva un ascoltatore che fa il medico di base, la sfida logistica che è enorme, la sfida di distribuzione, la sfida logistica, bisognerà iniziare ad occuparsene, direi, anche dal punto di vista giornalistico, e lo faremo. Grazie Roberta Villa per essere stata con noi, giornalista, divulgatrice scientifica. Ci sentiamo alla prossima. Intanto GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.